ritornare dai tuoi per un paio di settimane. Può servirti a capire cosa è cambiato e cosa è sempre uguale. Annusare gli armadi che sono stati la tua casa sarà come ubriacarti con un sorso di aranciata. Non poteva che andare così e non ti spieghi lo spavento, ma la calma del mare, lo sai, la decide sempre il vento. Passeggiare sui tetti in vestaglia, piedi nudi tra i campanili, farà bene ai tuoi occhi e a quelli dei tuoi vicini. Attraversare la piazza col cappotto profumato ti fa pensare a tuo nonno, al ritorno di un soldato. Non poteva che andare così, non c'è stato nessun malinteso. Il colore del mare, lo sai, lo decide sempre il cielo. Non volevi che andasse così, ma non è stato un incidente. Domandarsi perché proprio a me, non è da te e non serve a niente. Incontrare lo sguardo di un vecchio amore malandato sarà come specchiarti in un vetro frantumato. Ritornare a ferirci le caviglie in mezzo ai campi resta l'unico modo per sentirci ancora salvi.